Un libro tira l'altro, di Salvatore Carrubba. Buonasera cari amiche e cari amici, oggi incontriamo un protagonista della politica e dell'economia italiana, è Giorgio Lamalfa, il figlio di Ugo Lamalfa, padre e figlio furono leader del Partito Repubblicano, padre e figlio sono stati due economisti molto vicini tra l'altro al personaggio di cui si parla nel libro che ha scritto Lamalfa, e cioè Cuccia. Il libro si intitola Cuccia, il segreto di Mediobanca, è pubblicato da Feltrinelli, 312 pagine, 17 euro. Si tratta di un libro nel quale Lamalfa descrive il personaggio Cuccia collocandolo all'interno dell'esperienza di Mediobanca, la famosa banca d'affari fondata subito dopo la seconda guerra mondiale per iniziativa di Raffaele Mattioli e guidata ininterrottamente per tantissimi anni da Enrico Cuccia, che diventò, almeno così era considerato, il dominus del capitalismo italiano, perché tutti gli affari delle grandi famiglie imprenditoriali si decidevano, si diceva, nello studio di Cuccia. Lamalfa dà di Cuccia un ritratto molto simpatetico, oltre che molto documentato, descrivendoci il personaggio e soprattutto studiando quello che è stato il ruolo essenziale, autentico, di Cuccia e della sua creatura, cioè di Mediobanca. Ma di questo adesso parliamo con l'autore. Buonasera a Giorgio Lamalfa. Buonasera. Giorgio Lamalfa, lei descrive Cuccia nel suo libro come simbolo, così scrive, della combinazione eccezionale di spirito pubblico e rigore privato. Ecco, questo modello Cuccia, secondo lei, è ancora vitale, ha ancora qualcosa da dire? Beh, secondo me avrebbe sempre da dire, perché la mia opinione è che un'economia che funzioni bene ha bisogno di uno Stato che funzioni molto bene e che la sorregga, la sostenga. La mia convinzione, il mercato da solo rischia di andare a sbattere, come è andato a sbattere molte volte anche in questi ultimi anni. Cuccia aveva questa, veniva da una tradizione in Italia molto lunga, che è una tradizione che fa capo a Francesco Saverio Nittim, Beneduce, Menichella, Mattioli, Cuccia, insomma una grande tradizione di uomini che erano, per così dire, dei centauri fra il settore pubblico e il settore privato, cioè portavano nello sviluppo del settore privato un'alta visione degli interessi pubblici, quindi secondo me sarebbe indispensabile anche oggi. Lei descrive questa concezione di Cuccia dell'intervento pubblico, una concezione particolare nella quale comunque egli cercava di opporsi, lei spiega, a quelle che erano le incursioni della politica. Sì, beh, lì che cosa succede? Che a un certo punto, all'inizio degli anni 50, cioè finita l'era di De Gasperi, De Gasperi esce di scena intorno al 53, diciamo, la Democrazia Cristiana cambia natura, cioè prende la natura di un partito che vuole dominare la vita economica e comincia a mettere i suoi uomini, Alliri, Alleni, dove mette un suo deputato che è Mattei, e poi e così via, mano a mano cerca di prendere in mano le leve del potere economico. E in quel momento Liri, che era stato uno degli elementi di forza dello sviluppo economico italiano, progressivamente tende a diventare uno degli aspetti parassitari, diciamo, della vita italiana, cioè comincia ad andare male, le imprese vanno male, sono dominate dal clientelismo. E in quel momento la Cuccia, che è l'espressione dell'Iri, perché è una banca nata dalle tre PIN, che sono la Banca Commerciale, il Credito Italiano e il Banco di Roma, che sono banche pubbliche, ma guidate con spirito privato, da quel momento Mediobanca diventa, come posso dire, il luogo di difesa del confine tra il privato e il pubblico. E parla molte volte, lui parla di una manmise, di una manomissione che viene dal settore pubblico dell'impresa privata, e anche tutta quella parte che ha generato tanta polemica dell'attività di Mediobanca, i patti di sindacato e così via, avevano a ben vedere fondamentalmente il compito di resistere, di consentire a nuclei di capitalisti privati di resistere alle intromissioni al settore pubblico. Ecco, in questa difesa dell'autonomia Cuccia talora, le ricorda, non ebbe scrupolo a litigare, per così dire, anche con Mattioli, che pure aveva fondato Mediobanca. Sì, questo è una cosa che ha a che fare con l'idea che ho cercato di ricostruire attraverso gli scritti di Cuccia, dell'azione dell'Assemblea ed anche delle carte private che ho potuto modo di consultare, che il mestiere, quello che lui chiama il mestiere del banchiere della banca di investimenti, è un mestiere molto diverso da quello della banca commerciale, e lui era l'azionista principale della Mediobanca, era la banca commerciale, e di cui ci riteneva che il compito di valutare se dare o non dare soldi a un imprenditore che fa degli investimenti è un compito talmente sofisticato che bisogna che lo decida, e il rischio se lo prenda l'imprenditore bancario che ha questo compito, cioè Mediobanca, e non può devolvere questa responsabilità nemmeno a un azionista importante o al suo migliore azionista, che è la banca commerciale, che fa un mestiere completamente diverso. Tant'è vero che io ricostruisco che lo scontro che diede luogo a una lettera che Mattioli mandò e che poi fu conosciuta fin dagli anni Ottanta, e che finiva con le parole: nell'interesse di chi è amministrata Mediobanca, diceva Mattioli, nasce non da una grande questione Fiat, Montegatini, Pirelli, nasce dalla richiesta di Mattioli di dare un finanziamento a medio termine a un'impresa editoriale che non andava molto bene, e Cuccia gli risponde: ma io so io a chi dare i soldi, e a quello io non glieli do perché quello fallisce. Questo fu lo scontro, non di principi, ma su chi ha la responsabilità di decidere l'investimento del risparmio che raccoglie dai suoi risparmiatori. A proposito del rapporto con gli imprenditori, c'è un passo abbastanza sorprendente del suo libro nel quale lei scrive: Cuccia non amava gli imprenditori, spesso diceva, avidi di denaro, desiderosi di apparire, incapaci di organizzare per tempo linee efficaci di successione familiare alla guida delle loro aziende. Eppure diventò il simbolo del capitalismo italiano, Cuccia. È proprio questo il, diciamo così, il paradosso della funzione pubblica e della funzione privata. Cuccia era un funzionario pubblico, era un civil servant, come si direbbe in inglese. E lo si vede dal fatto che nel suo tempo gli stipendi, per esempio c'è una bellissima lettera che io ho pubblicato in cui lui critica la pratica delle banche anglosassoni di pagare altissimi stipendi ai loro dirigenti. Cuccia aveva credo di sapere che avesse uno stipendio più basso, che lo decideva lui, più basso di quello degli altri alti dirigenti della banca, cioè l'amministratore delegato era pagato un po' meno dei suoi sottoposti. Questo è un principio abbastanza. Quindi portava in questo mestiere una visione molto alta, molto pubblica, e se bisognava difendere il capitalismo, il mercato, il capitalismo privato dall'aggressione della mano pubblica, lo si difendeva anche se questi imprenditori non erano persone che avrebbe dovuto frequentare nel pomeriggio e nella sera, per così dire, perché avevano delle abitudini non proprio coerenti con le sue, diciamo. Nel suo libro lei smonta o comunque affronta uno dei temi di maggiore polemica nei confronti di Cuccia, quello secondo il quale Cuccia sarebbe stato l'inventore della teoria dei noccioli duri, che permettevano appunto di controllare il sistema delle aziende private italiane con poche azioni, relativamente poche azioni. Ecco, che cosa rappresentò questa tesi dei noccioli duri? Tenga presente che il capitalismo, anche contemporaneo, comunque la storia del capitalismo, i due modelli, il modello dell'impresa contendibile, il modello dei noccioli duri, non è una questione italiana. Tenga presente che il capitalismo tedesco è tutto fatto di noccioli duri e di rapporti con le banche, mentre il capitalismo anglosassone è fatto di emissioni. Quando un imprenditore vuol fare un investimento, fa un aumento di capitale e lo porta in borsa. E in borsa ci sono fondi di investimento, fondi pensione e così via. Quindi il capitalismo contendibile, chiamiamolo così, è spesso un capitalismo manageriale, è un fenomeno anglosassone. Il capitalismo renano, in cui le banche di investimento hanno un ruolo molto importante e l'imprenditore ha un nome, il proprietario delle fabbriche tedesche sono dei nomi, diciamo così, delle famiglie che molto spesso, e in Italia che il cui sviluppo modello, il cui miracolo economico, il cui lo sviluppo industriale avviene all'inizio del secolo attraverso la presenza di capitale e di banche tedesche come la Comit in particolare, si sviluppa secondo questo modello, e Cuccia rappresenta, la Mediobanca rappresenta, che venne pensata da Mattioli e da Cuccia insieme, forse più da Mattioli che aveva un'autorità maggiore. Insomma, quando nasce Mediobanca tra il 44 e il 46, l'idea fondamentale è di rifare la Commit di Töplitz senza fare gli errori che avevano condotto quella banca al fallimento e alla sua irizzazione negli anni 30. Quindi è il modello, diciamo così, che poi Kutscher sviluppa, è un modello, chiamiamolo tedesco, e ancora oggi è aperto nel mondo la discussione se sia superiore il capitalismo anglosassone o il capitalismo, diciamo, renano, come si chiamava un tempo. Grazie a Giorgio Lamalfa, autore di Cuccia e il segreto di Mediobanca. Buona Grazie, serata. A presto, arrivederci. E di Enrico Cuccia, Aragno pubblica Promemoria di un banchiere d'affari. È un libro curato da Sandro Gerbi e Giandomenico Piluso, 204 pagine, 25 euro. Qui sono raccolti vari scritti di Cuccia, vari interventi, a partire dalle missioni che egli fece a Londra in Africa orientale nella metà degli anni 30. E poi naturalmente si parla a lungo di Mediobanca. Gli interventi non sono in ordine cronologico e ne troviamo diversi, a partire da quello famoso e che viene citato anche nel libro di Lamalfa, tenuto in un Rotary di Firenze nel 1986, un intervento nel quale Cuccia descrisse la genesi e il ruolo che Mediobanca svolse per molti decenni nel sistema finanziario italiano. In quell'intervento Cuccia ricorda come la nascita di Mediobanca non fosse stata facile, anche per le riserve che aveva avuto la Banca d'Italia all'epoca guidata da Luigi Einaudi. La Banca d'Italia vinse le proprie perplessità quando si prospettò l'ingresso nel capitale della nuova banca di istituti stranieri, la cui rappresentanza peraltro entrò soltanto nel 1956. Poi in questo libro troviamo varie proposte di Cuccia che riguardano per esempio l'ammodernamento del mercato finanziario, proposte per l'Italia, una vecchia questione che ritorna spesso nella finanza italiana, proposte per il gruppo Ferruzzi, riflessioni sul mestiere del banchiere e sulle prospettive delle banche italiane in Europa. Un libro tira l'altro. Ben ritrovati con Salvatore Carruba. Ieri è caduto il centenario dell'evento che diede inizio alla Prima Guerra Mondiale. Il 28 giugno del 1914, infatti, Gavrilo Princip uccise a Sarajevo l'arciduca austriaco Francesco Ferdinando, che era erede al trono dell'impero, e assieme alla moglie Sofia. Ne seguì l'ultimatum da parte dell'Austria alla Serbia del 23 luglio 1914, che sfociò poi nella proclamazione della guerra il 28 luglio, una guerra che presto avrebbe coinvolto all'inizio Germania, Russia e Francia. Quel giorno e la personalità di Principe sono ricostruiti nel libro di David Smith, Una mattina a Sarajevo, 28 giugno 1914, pubblicato da Editrice Goriziana, 250 pagine, 24 euro, e tradotto da Rossana Marcus Varrocchi. Il libro è incentrato soprattutto sulla figura, le nevrosi e il ruolo dell'attentatore, appunto il ventenne Princip. Molti altri libri stanno uscendo in questa occasione, in particolare Il Mulino sta dedicando particolare attenzione alla Prima Guerra Mondiale. Vi segnalo allora di Gian Enrico Rusconi, politologo e storico, il libro 1914, Attacco a Occidente, 320 pagine, 24 euro. La guerra, quella guerra, poteva essere evitata? E se sì, perché non ci si riuscì? Questo è uno dei temi che pone nel suo libro Rusconi, e l'autore cerca di rispondere studiando il forte coinvolgimento emotivo dell'opinione pubblica e lo sforzo che venne compiuto da tutti per dare un senso e per spiegare la razionalità apparente della guerra. Scrive infatti Rusconi: mai nessuna guerra è stata elaborata tanto scientificamente, con un enorme impegno di programmazione operativa, logistica, tecnologica. E allora l'autore qui cerca di capire le responsabilità degli eventi apparentemente imprevedibili e quindi per definizione privi di responsabilità. Sentiamo per esempio da Rusconi come viene presentato appunto quel momento, l'attentato che suscitò lo sdegno, ma non un dolore terribile, anche presso la corte austriaca. Il 28 giugno 1914, un attentato preparato e condotto in modo un po' dilettantesco da un ristretto gruppo di terroristi irredentisti bosniaci uccide l'erede al trono della monarchia asburgica, Francesco Ferdinando, insieme alla sua consorte. Il delitto avviene a Sarajevo, capoluogo della Bosnia, regione annessa anni prima alla monarchia austro-ungarica, la notizia coglie di sorpresa e turba l'intera Europa per la prepotenza simbolica del gesto più che per la personalità della vittima. L'arciduca non era amato, aveva molti nemici a corte e nell'esercito. Era accusato di volere e di gestire un suo governo personale. Anche se di idee conservatrici e nostalgiche, tuttavia non era un ultra-reazionario e militarista, per usare i cliché liberali. Meditava una sorta di riforma della monarchia che associasse le popolazioni slave alla componente tedesca e magiara nella rappresentanza e nella guida dell'impero multietnico, la cosiddetta triarchia. Questo atteggiamento però gli aveva procurato molti risentimenti nei ceti dirigenti, soprattutto magiari. Per quanto riguardava la gestione dei rapporti internazionali e delle turbolenze balcaniche, poi, il Granduca, pur essendo fermo sostenitore dei diritti dinastici e imperiali, era inviso ai fautori della repressione violenta a ogni costo e ai sostenitori del partito della guerra contro la Serbia. Dopo la notizia dell'assassinio, viene lasciata filtrare dai palazzi la reazione privata del vecchio imperatore, Francesco Giuseppe, che suona glaciale. Spaventoso, l'onnipotente non si lascia sfidare. Una potenza più alta ha di nuovo ristabilito quell'ordine che io purtroppo non ho potuto mantenere. Il cordoglio per la morte dell'erede al trono sembra più formale che sinceramente partecipato. L'Italia sarebbe entrata in guerra quasi un anno dopo, ma il suo ruolo fin dall'inizio fu decisivo. Lo stesso Rusconi osserva che se l'Italia non fosse entrata in guerra l'anno successivo, le potenze centrali avrebbero potuto vincere, o quantomeno la decisione dell'Italia avrebbe potuto favorire un pareggio, come lo chiama Rusconi. Più netta è la posizione di Franco Cardini e di Sergio Valzania in La scintilla, da Tripoli a Sarajevo, come l'Italia provocò la prima guerra mondiale, pubblicato da Mondadori, 208 pagine, 19 euro. Qui addirittura, come recita il sottotitolo, la responsabilità principale è attribuita all'Italia. Perché? Perché la guerra di Libia, scrivono gli autori, quella scatenata dall'Italia nel 1911 per conquistare appunto un altro pezzo di terra al sole, un altro pezzo di colonie, aveva già provocato uno scossone agli equilibri europei, e pesanti in questo senso sono, secondo gli autori, le responsabilità di Giovanni Giolitti, che avrebbe scatenato quella guerra e quella spedizione coloniale, per così dire, per coprirsi a destra. Scrivono infatti gli autori che Giolitti può essere ritenuto a ragione il primo statista europeo del Novecento ad agire, considerando la guerra non come ultima ratio in vista della soluzione di un conflitto, quanto piuttosto come strumento di gestione della politica interna che veniva anteposta a quella estera. E qui troviamo la storia di quell'intervento e dei successivi passi diplomatici che finirono per preparare appunto la scintilla della Grande Guerra. Dicevo prima, parlando del libro di Rusconi, della mobilitazione dell'opinione pubblica. Mario Isnenghi esplora la formazione dell'opinione pubblica nel clima della Grande Guerra nel libro Il mito della Grande Guerra, che viene ripubblicato appunto dal Mulino, 450 pagine, 15 euro. Qui vengono esaminate le iniziative del centenario, che Isnenghi teme siano volte soprattutto a favorire una sorta di turismo per le mete belliche, immerse, scrive l'autore, in un clima di agnosticismo, indifferenza o ostilità a dimensioni più vaste come la nazione o lo Stato. Un libro, insomma, diversamente controcorrente, lo chiama l'autore, perché parla di miti, non però per dimitizzare, scrive. Ne riconosce anzi i fattori aggregativi e motivazionali, non rinuncia affatto al primato della politica, scorge ben vive le ideologie e ambite partecipate le grandi narrazioni. Pone in prima fila i sentimenti e le emozioni, l'esistenziale, il privato e politico, per l'appunto, così Isnenghi. E qui l'autore procede esaminando la produzione giornalistica e letteraria dell'epoca, che fu vastissima e punteggiata dagli interventi dei maggiori intellettuali dell'epoca, in gran parte a favore della guerra, considerata come un evento fatale e naturale. Per esempio Alfredo Panzini avrebbe scritto che il popolo tedesco è come un bambino che è cresciuto in proporzioni gigantesche, sente la necessità di spezzare i suoi vestiti che non lo contengono più, come la biscia esce dalla vecchia pelle come la ragosta abbandona la vecchia crosta. Allora qualcosa di automatico, obietta Panzini in questo stesso scritto. Esattamente così accadde, la guerra considerata come un fatto pressoché inevitabile. Ma questo atteggiamento non convinse tutti. Per esempio, Benedetto Croce rispose a questo clima con queste parole. Ma pure professando il più sincero rispetto per la sollecitudine patriottica che si sente talvolta vibrare in questi incitamenti e sotto quei ragionamenti, io non sono stato persuaso al credo bellicoso e non ho molta fiducia nei suoi apostoli, perché tra questi apostoli ravviso moltissimi che ho già conosciuti e visti all'opera negli ultimi anni, improvvisatori di nuove filosofie, di nuovi socialismi e di nuove formule di poesia, di pittura, di musica, senza che mai abbiamo creato né nuove religioni, né nuove filosofie, né nuovi socialismi, né altro che mediocrissime poesie, pittura e musiche. E temo che con la stessa imprudente facilità si siano dedicati ora a improvvisare politica e guerra e a decidere delle sorti della nostra comune patria. Sempre il Mulino pubblica il libro di uno storico americano, Jay Winter, che si intitola Il lutto e la memoria, la grande guerra nella storia culturale europea, 342 pagine, 14 euro, tradotto da Nicola Rainaud. Anche questo libro ha a che fare con il mito, in particolare con l'idea che l'autore contesta, che la prima guerra mondiale sia stata un'espressione dell'affermazione del modernismo. E Winter qui assume come elemento centrale della sua analisi l'elemento del lutto e del modo in cui le perdite umane furono gestite e trasformate in mito in Gran Bretagna, in Francia e in Germania. E anche questo percorso viene seguito attraverso le opere d'arte, della letteratura e del cinema. Invece una prova letteraria ispirata a quel periodo e di un autore di cui abbiamo parlato anche la settimana scorsa, cioè Stefan Zweig, è Il mondo senza sonno, è pubblicato da Schirà, 106 pagine, 12 euro, che raccoglie due articoli e due novelle scritti nel 1914-18 e 1928, ispirati appunto alla Grande Guerra, tradotti da Leonella Basigliani. Il mondo senza sonno, naturalmente, è quello della Prima Guerra Mondiale. Questo è il titolo del primo articolo, che descrive le condizioni anche psicologiche nelle quali si trovò l'Europa allo scoppio della Grande Guerra. Ultimi arrivi. Abbiamo parlato di arti visive e allora un'incursione nella musica con un libro di Ramin Bahrami, il famoso pianista di origine iraniana, poi trasferitosi prima in Italia e poi in Germania, di cui abbiamo anche già parlato in questa trasmissione, che adesso pubblica Il suono dell'Occidente. Questo libro è pubblicato da Mondadori. 154 pagine, 17 euro. Qui troviamo la storia praticamente della musica, una sintesi della musica occidentale in 14 opere, dall'Orfeo di Monteverdi fino alla Sagra della Primavera di Stravinsky. E in queste 14 opere Bahrami cerca un filo conduttore che spiegano quella che è la sua intuizione iniziale, cioè che a un certo punto la musica si sia staccata dalla liturgia, abbia assunto una sua autonomia, è la cosiddetta Ars Nova, e la musica diventa appunto una struttura autonoma rispetto alla liturgia e alla religione. E proprio l'Ars Nova e la polifonia, scrive l'autore, sono due dei doni più preziosi che l'Occidente e il suo suono hanno fatto all'umanità. Poi parliamo di due giornalisti, una celeberrima, Oriana Fallaci, di cui esce Viaggio in America, è pubblicato da Rizzoli, 306 pagine, 19 euro, nel quale troviamo dei famosissimi reportage che la Fallaci scrisse dagli Stati Uniti tra il 1965 e il 1966 per l'Europeo. La Fallaci girò l'America, a un certo punto anche in compagnia di Shirley MacLaine, ebbe degli incontri straordinari con personaggi americani che costituiscono qui una galleria molto significativa, ma anche con italiani insospettabili. Per esempio, a un certo punto c'è un capitolo dedicato a un marxista a New York, il marxista è Pierpaolo Pasolini, incontrerà anche Zavattini a New York. E la Fallaci di Pasolini ricorda l'entusiasmo. Pasolini definì New York come una città magica, travolgente, bellissima, una di quelle città fortunate che hanno la grazia, come certi poeti che ogni qualvolta scrivono un verso fanno una bella poesia. Interessante anche il reportage sui teenagers, questo è del 1966. La Fallaci capisce che il mondo sta cambiando, qualcosa sta per succedere, interroga questi ragazzi e naturalmente anticipa quelle che saranno le tensioni che esploderanno di là a pochi anni. L'altro giornalista è a noi contemporaneo, è Giovanni Floris, che ha scritto Il confine di Bonetti, è pubblicato da Feltrinelli, 218 pagine, 18 euro, nel quale l'arresto di un noto professionista romano e di un famoso regista apre uno squarcio sulla vita, su un gruppo di ragazzi romani che poi hanno fatto in parte carriera e che da questo incidente nella loro vita avranno l'occasione per ricostruire quel mondo e soprattutto per riflettere sul popolo. Più passato. E infine vi ricordo un grande classico, I gialli di Simenon, che sono in corso di pubblicazione presso Adelphi, adesso è uscito il quarto volume, si chiama appunto I Maigret questo libro, 16,90 euro, 676 pagine, varie traduzioni, perché troviamo qui cinque romanzi, tra cui alcuni molto famosi di Simenon, per esempio Il pazzo di Bergerac e poi quello che si chiama appunto Maigret. E a questo punto... Il confettino. Un libro per abituarci a osservare e immaginare, soprattutto in vista delle vacanze che magari per qualche bambino sono già cominciate, è il libro Se vuoi vedere una balena di Jolly Fogliano, illustrato da Erin Stead, pubblicato da Baba Libri, tradotto da Christian Brambilla, 12,50 euro. E con questo ringrazio Luca Cremonesi, redazione, Valeria Bernardi, regia. Vi ricordo il nostro indirizzo di posta elettronica, libro@radio24.it e il nostro sito www.radio24.it, dove potete sempre ascoltare queste e tutte le altre nostre trasmissioni. Vi auguro buona serata e vi do appuntamento domenica prossima. Il Sole 24 Ore e Radio 24 presentano Gli Indispensabili, 20 saggi universali per arricchire il tuo pensiero. Tutti i martedì in edicola con Il Sole 24 Ore.